Storie, storielle, storiacce. Io credo che le divisioni con gli anni siano state anche superate, perché è vero che io sono stata condannata da alcuni giudici, ma altri giudici hanno letto carte, sentenze e hanno deciso che noi potevamo uscire dal carcere. Noi siamo usciti con i ministri di centrosinistra, i ministri della giustizia di centrosinistra, noi siamo fuori e lavoriamo in questo partito radicale dal 98, perché? Non perché ci ha aiutato la destra o ci ha aiutato Berlusconi, quindi noi siamo usciti perché dopo 20 anni di carcere i governi di centrosinistra hanno deciso che era arrivato anche il momento di, forse anche una sorta di riparazione. Noi abbiamo anche detto quello che abbiamo fatto, l'abbiamo spiegato, ma Bologna con noi non c'entra niente. Tu dicesti in aula che a Bologna non dovevi essere quella che doveva abbassare lo sguardo. Io sono molto serena, perché la mia coscienza è a posto. Per quello che ho fatto ho pagato e continuo a pagare, perché la mia è ancora una vita di carcere, anche se non dietro le sbarre, ma comunque ho tutta una serie di limitazioni, quindi io continuo ancora a pagare, ho fatto 20 anni di carcere. Oggi la mia è una vita abbastanza serena, però ecco, non sono rassegnata, perché secondo me questo paese ancora deve scrivere quella pagina e prima o poi forse la riscriverà, non con i nostri nomi. Non lascerò che si dica che ho fatto morire i miei migliori amici, Stefano, Mario, Franco, soprattutto Alessandro e Giorgio, per fare un favore a Gelli o ai carabinieri. Ho lottato in questo processo non per evitare il carcere, ma per una questione di principio, per la memoria, per quegli anni molto faticosi, per il sangue versato, per una mia ritrovata serenità, per le lacrime soprattutto trattenute. E non ho paura di questa corte, assolutamente. E non vi sto guardando negli occhi per impietosirvi o impressionarvi, ma solo perché sia ben chiaro che qui a Bologna non dovrò mai essere io ad abbassare lo sguardo. Anni dopo questa deposizione al processo d'appello c'è meno veemenza nella voce di Francesca Mambro, ma le parole sono le stesse e identico soprattutto è lo sguardo che ti sembra scrutare oggi come nelle immagini degli anni dei processi e perfino nelle foto familiari che tiene appese dietro la sua scrivania nella sede del Partito Radicale a Roma, dove lavora sempre fianco a fianco con Valerio. Siamo riusciti a trovare elementi che dimostravano inconfutabilmente che noi non eravamo a Bologna il 2 agosto. È stato molto difficile per loro poi chiudere il cerchio su di noi, però alla fine è stato possibile, perché questa era la verità più comoda. Però il paese non ha mai creduto, ed è una realtà, ed è il fatto che stesso che siamo usciti dal carcere con il consenso trasversale delle forze politiche e delle stesse istituzioni, e sono stati altri magistrati a decidere che potevamo essere riammessi nel contesto sociale. Quindi io credo che la differenza che poi passa tra questo e quello che è accaduto fa parte comunque della vita, e noi abbiamo anche accettato il fatto che il paese avesse bisogno di quella sentenza all'epoca, allora. Ne siamo venuti fuori, siamo sopravvissuti a quella accusa grazie al fatto che sentivamo questa solidarietà intorno. Il comitato Se fossero innocenti era composto da moltissime persone della società civile che hanno messo a disposizione il loro nome e il loro impegno per dimostrare che noi non c'entravamo niente con Bologna. Quindi questa solidarietà ha fatto sì che anche la sentenza fosse, come dire, sopportata, nonostante il dolore che generava. Dolore che a un certo punto, per esempio, a me ha fatto scattare anche l'esigenza umana, profondamente umana, di rivolgere l'ultimo perché a chi poteva darmi una spiegazione sul fatto che dovevamo essere sacrificate sull'altare della necessità storica di questo paese. E io poi l'ultima volta che tentai appunto questa cosa fu scrivere al Papa. In quel momento ho anche capito che forse allora non eravamo davvero soli, perché il Papa rispose. Questa sua risposta io la porto nel cuore. Ti ha avvicinato alla fede? Io ero già, vengo da una famiglia cattolica, ho comunque avuto una cultura cattolica, e poi in carcere uno dei nostri interlocutori privilegiati, nel senso che era l'unica persona che mi metteva in difficoltà, era padre Adolfo Bachelet. La loro vicinanza non ci ha mai fatto disperare al punto tale da pensare che non ci potesse essere una soluzione. In aula un giorno disse che questo era l'incarico che si era data. Sa, Presidente, io quando scrivo, e l'amore tra me e Valerio quasi sempre è scritto, tranne che quando ci troviamo in queste gabbie, e faccio un uso spropositato di virgole, evidentemente, ma soprattutto le metto nei posti più strani, secondo Valerio. Per cui qualche anno fa mi ha regalato un libro di Duremat, che si intitolava L'incarico. Ed è tutto senza punteggiatura. Non ho cambiato idea sull'uso delle virgole, ma l'incarico, quello sì, quello l'ho fatto mio. E l'incarico che mi sono data è quello di capire cosa c'è dietro l'orrore. Noi non abbiamo a nessun atto alcun esclusivo. E questo è stato uno dei punti anche della vostra difesa all'interno del processo per la strage. Il fatto che ci fossero dei ragazzi manovrati da qualcuno rendeva possibile lo scenario che noi eravamo di un piano per cui la CIA, Andreotti e Biciogelli volevano modificare l'assetto del paese. Eravamo molto giovani, avevamo 20 anni. I ragazzini. È stata una parola che è ritornata tante volte nel processo, è stata quasi una fetta di quel processo. I ragazzini che appunto non pensano, i ragazzini che non hanno la capacità di distinguere, no? Tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. In realtà noi eravamo appunto sì, sicuramente giovani, ma non eravamo così sprovveduti e così sciocchi da servire chi che sia. E forse la nostra dannazione è stata proprio quella di non avere nessun capo. Non c'era nessun grande vecchio. Noi sappiamo che siamo stati condannati da chissà che siamo innocenti, quindi sappiamo che è stata messa in piedi una grande menzogna. E finché sei giovane, l'ipotesi che un adulto possa mentire anche a quei livelli sembra un'assurdità. Non ci vuoi credere, fino all'ultimo non ci credi, poi alla fine col tempo ci siamo dovuti anche rassegnare. Non siamo rassegnati alla condanna, e quindi continueremo la nostra battaglia, continueremo a cercare di dimostrare la nostra innocenza, e in tal senso non siamo arresi assolutamente. Non avete mai sentito o mai avuto il dubbio di poter essere, diciamo, di tornare comodi a qualcuno con le vostre azioni? Cioè, avete mai avuto la sensazione di poter essere stati manovrati al di sopra? Eravamo talmente fuori da qualsiasi ottica di appartenenza, cioè noi appartenevamo a noi stessi, al nostro gruppo di amici, i nostri coetanei, e poi eravamo diffidenti verso tutti, non ci fidavamo. Quindi questa diffidenza ha fatto sì che noi non avessimo nessun punto di riferimento, tutt'altro. E devo dirti la verità che poi col passare del tempo io ho capito che, per esempio, isolare il movimento sociale ha fatto sì che poi la nostra risposta fosse in qualche modo una risposta di chi è stato messo all'angolo. Voi non avete mai invece avuto la percezione di essere stati usati da apparati? Noi non è questo il punto è che probabilmente gli opposti estremismi che si scannavano davano la conferma ai partiti che c'era molto da fare per mettere le cose in ordine, e quindi forse siamo serviti a dimostrare che l'ordine doveva essere costituito. Io dico che forse ci hanno lasciato fare, era funzionare al sistema. Quindi erano anni in cui non passava giorno che non ci fossero degli attentati nelle sedi dei partiti, non ci fossero delle aggressioni. E io mi ricordo che era consuetudine frequentare più gli obitori e gli ospedali che le discoteche. È vero che sei stata tu a coniare la sigla, Narro? Ma sì, diciamo che quelli erano tempi in cui c'era molta energia. Tutta questa energia, se fosse stata col volontariato, forse molti danni sarebbero stati contenuti. I fatti di allora, le cronache giudiziarie, sono imprescindibili da quel drammatico contesto storico di anni di piombo e strategia della tensione che ha contato vittime proprio come durante una guerra. E di questo scontro a mano armata, Bologna, con la sua voragine, diventata tomba per 85 innocenti, è stato l'acme più tragico. E non ancora del tutto chiarito se dal palco delle celebrazioni del 2 agosto il presidente dell'Associazione dei Familiari delle vittime continua a chiedere che si faccia luce sui mandanti politici della strage. Seduto accanto a Francesca Mambro, Valerio Fioravanti lavora concentrato sul computer. Un giorno disse che loro non erano sopravvissuti a caso. Volevamo dimostrare che il mondo non appartiene solo ai grandi, disse, e abbiamo fatto un macello, e alla fine sia gli amici che le vittime sono morti inutilmente.